Odissea 2011. In viaggio verso il futuro. Di Maurizio Melis. Nasce da una tesi Odissea 2011 e la tesi è che la fantascienza sia una sorta di prosecuzione dell'epica, mettiamola così, cioè di quell'esercizio che l'umanità ha fatto per secoli e continua a fare tutt'oggi, ovvero immaginare l'uomo a confronto con poteri straordinari cercando di indovinare l'uso che di questi poteri potrebbe fare. E non c'è forse sfida più profonda che immaginare l'uomo alle prese con tecnologie che in qualche modo ridefiniscono l'umanità stessa, insomma di umano 2.0 che ci occupiamo oggi. Potrebbe essere questa una definizione adeguata. Cominciamo così. Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signori, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, più forte, più veloce. Più forte e più veloce, questa è l'idea di Umano 2.0 che in qualche modo ci veniva proposta da una delle più popolari serie televisive, L'Uomo da 6 milioni di dollari, con Lee Majors nei panni di Steve Austin, un astronauta che a un certo punto ha un terribile incidente, perde le gambe, perde un braccio, perde un occhio, ma queste parti vengono poi sostituite con delle versioni bioniche, quindi cibernetiche, robotiche, dotando Steve Austin di capacità eccezionali. Poi c'è anche lei, la donna bionica, con la bellissima Lindsay Wagner. Potete immaginare come andava a finire quando i due si incontravano. Ma è venuto il momento di presentare l'ospite che ci accompagnerà nel viaggio di oggi. È Giovanni De Matteo. Benvenuto, De Matteo. Ciao, grazie. De Matteo è una delle penne, forse oggi dovremmo dire delle tastiere più valide, diciamo, del panorama della letteratura fantascientifica italiana, ed è un esponente del connettivismo. Poi cercheremo di capire che cos'è. In particolare nel 2007 ha vinto il premio Urania, che è uno dei premi più prestigiosi in campo fantascientifico, con il romanzo Sezione Piquadro, ambientato in una Napoli del futuro oscura, da cui però emerge con grande forza il tema di cui oggi ci occupiamo. E d'altra parte la fantascienza si è spesa molto su questo tema, confondendosi spesso, io direi proprio, con la riflessione filosofica. E qui arriviamo proprio al connettivismo, a cui appunto De Matteo aderisce, quindi ti chiedo proprio di spiegarci che cos'è, diciamolo subito, comunque si tratta di una corrente letteraria, di una corrente artistica. Sì, esatto, il connettivismo lo possiamo definire in realtà come un incubatore. È un'esperienza a cui partecipano ormai diverse decine di autori italiani, ma non solo, anche artisti, musicisti, e cerchiamo di metterci a confronto su una serie di tematiche, ovvero l'evoluzione dell'uomo e i problemi anche etici che vengono posti dal progresso. Dunque, abbiamo parlato di uomo bionico e io ho intervistato Gianfranco Ferrigno, che è docente di laboratorio di robotica medica e tecnologie in chirurgia del Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano, e gli ho chiesto proprio in tema di protesi bioniche, è un terreno di grandissimo interesse per la bioingegneria, qual è lo stato dell'arte e quali sono invece i principali limiti. Ascoltiamo. Oggi le protesi di arto sono abbastanza avanzate, sono protesi di arto per gli arti inferiori che vengono attivate dalla cosiddetta energia corporea, cioè è il moncone che attiva la protesi. La protesi di suo può essere intelligente in termini che definisce parametri di smorzamento del ginocchio durante il cammino. Sono protesi molto più sofisticate invece quelle che utilizzano l'attività residuo muscolare del paziente, di muscoli che magari non erano utilizzati per il movimento dell'arto che è venuto a mancare, ma che il paziente impara a utilizzare per pilotare la protesi, ovvero si rileva segnale elettrico che è associato alla contrazione muscolare da un muscolo e questo viene utilizzato per pilotare un attuatore, per esempio una mano, le dita di una mano artificiale che restituiscono la capacità di presa al paziente. Per muoverci in quella direzione, quella diciamo della donna bionica, quali sono i principali limiti che oggi dobbiamo superare? Beh, diciamo che innanzitutto tutto bisogna migliorare la capacità di controllo di una protesi. Le problematiche sul controllo fine sono dovute anche al fatto che non è così semplice, non è scontato riattaccare il moncone del nervo che andava a servire un determinato muscolo a un sensore che poi mi attivi un attuatore che ne faccia le veci. Altro problema grosso è quello della fonte di energia, cioè posso pensare di fare delle protesi molto potenti, molto performanti, ma poi il problema è per quanto tempo possono lavorare in una giornata con una batteria, una sorgente di energia che sia poi fisicamente facilmente portabile dal soggetto. E insomma, De Matteo, effettivamente se uno deve portarsi dietro 300 kg di batterie tutte le volte, va bene che è bionico, però... Ma non è mica un problema, basta utilizzare il dilitio. Ah beh, certo, quello di Star Trek. Esatto. Antimateria e dilitio, vabbè, abbiamo trovato la soluzione. La spiegherò a Ferrigno allora, gli farò avere il tuo suggerimento. Dunque, abbiamo parlato di bionica, ma c'è un altro filone che apre a prospettive forse ancora più sorprendenti, proprio per quanto riguarda la possibilità di modificare o al limite anche di migliorare le capacità umane attraverso l'integrazione di parti tecnologiche. Ascoltate. I 10 prescelti che si erano prestati alla sperimentazione avevano ricevuto in dono un set completo di innesti neurali a spese del Ministero. I fondi, stornati dalle rendite dei contribuenti, erano stati convertiti in elettrodi di platino, fibre nervose sintetiche, interfacce craniali in carbonio policristallino, banchi di memoria flash e giunti neurali a superconduzione. Ogni necromante portava addosso lavori di nanochirurgia e impianti per un valore di qualche milione di dollari. Era uno stralcio di sezione P quadro, parliamo proprio del romanzo del nostro ospite Giovanni De Matteo, che si è, ricordo, aggiudicato proprio con questo testo il premio Urania, che ci porta in una Napoli del futuro in cui opera questa unità speciale della polizia, la sezione P quadro, che è composta da agenti che si sono sottoposti all'installazione appunto di apparati nanotecnologici che gli permettono in pratica di assorbire dal cervello dei morti entro qualche ora o qualche giorno dal decesso gli ultimi ricordi, tra i quali nei casi di omicidio spesso si nasconde il volto dell'assassino. De Matteo, da dove è nata questa idea? È un'idea che mi ronzava nella testa, probabilmente era anche la sfida di confrontarmi con un tabù come la morte. Noi siamo abituati a una rappresentazione della morte sempre molto statica, per cui io ho immaginato che appunto questi poliziotti del futuro fossero effettivamente capaci di interagire con quello che sopravviveva di un determinato delitto all'interno dei ricordi della vittima. Bene Matteo, intanto c'è una cosa che possiamo dire: questa idea delle nanotecnologie nasce nel 59 e viene, come dire, immaginata per la prima volta questa prospettiva da Richard Feynman, che è stato uno dei più grandi fisici e anche uno dei più grandi divulgatori del Novecento, il quale suggerì durante una famosa conferenza un modo per sviluppare l'abilità di manipolare atomi e molecole direttamente. Questa nanotecnologia si riferisce proprio alle dimensioni nano degli oggetti che si manipolano e si creano, quindi parliamo di milionesimi di millimetro. Ecco, Di Matteo, ci sono però degli esempi, dei primi tentativi di realizzare delle macchine nanometriche? Mi risulta che la ricerca sia molto promettente in questo campo. Conosciamo nanomacchine realizzate dall'Università di Bologna, in cui abbiamo una molecola che funge da asso di scorrimento per una molecola circolare, ponendo pertanto le basi alla costruzione di motori molecolari, oppure per esempio anche nanoparticelle utilizzate in applicazioni mediche con l'intenzione, se non altro, di bersagliare puntualmente cellule tumorali oppure localizzare esattamente in tumori. Ecco, tra l'altro queste nanotecnologie, che poi sembrano, come dire, un'invenzione umana, non lo sono assolutamente, perché la nanotecnologia più efficiente di tutte è proprio la vita biologica, che è nanotecnologica fino in fondo. Tu parlavi del motore concepito all'Università di Bologna, ma uno dei più incredibili nanomotori mai concepiti l'ha concepito l'evoluzione, ed è quello che attiva il flagello dei batteri, cioè quella specie di codina con la quale alcuni batteri riescono a muoversi. Ed è incredibile la complessità di questa macchina, tanto che uno degli argomenti preferiti degli antievoluzionisti, i quali cercano di dimostrare che dietro a questa complessità debba necessariamente esserci la mano di Dio. Odissea 2011. in viaggio verso il futuro. Gli ovuli che le sono stati prelevati, Marie, sono stati fecondati con gli spermatozoi di Antonio. Dopo la selezione restano, come vedete, due sani maschietti e due sanissime femminucce. Nessuno naturalmente predisposto alle più gravi malattie ereditarie. Non rimane che scegliere il candidato più confacente. Vorremmo che Vincent avesse un fratello per giocarci insieme. Certo. Ciao, Vincent. Dunque avete specificato occhi nocciola, capelli scuri e pelle chiara. Mi sono permesso di eliminare ogni affezione virtualmente pregiudizievole. Calvizie precoce, miopia, predisposizione all'alcolismo e alle droghe, tendenza alla violenza, all'obesità. Beh, noi non volevamo, in quanto alle malattie, sì. Ma... Certo, ecco, pensavamo se non fosse meglio lasciare anche qualcosa al caso. Fate che vostro figlio parta in posizione di vantaggio. No, non caricate vostro figlio di ulteriori fardelli. Torniamo in studio, Maurizio Melis al microfono, Giovanni De Matteo in collegamento telefonico da Bologna, autore di fantascienza. Beh, quello che avete sentito era uno stralcio preso dal film Gattaca, un film del 97 diretto da Andrew Niccol. È una pellicola ambientata in un futuro tutto sommato abbastanza prossimo, in cui c'è una sorta di lotta di classe tra chi è nato programmato geneticamente, e la scena che avete sentito fa chiaramente riferimento ad una pratica eugenetica, e chi invece è nato con un patrimonio genetico naturale. De Matteo. Una delle immagini che più colpiscono del film è proprio quella della rigida separazione tra le classi. Abbiamo da una parte i colleghi del protagonista indaffarati nel programma di conquista spaziale, tutti quanti inquadrati nei loro abiti di ordinanza, puliti, impeccabili, e dall'altro invece abbiamo gli inservienti che si occupano di tenere pulite le superfici, gli ambienti del laboratorio. Qui ancora una volta abbiamo pertanto una contrapposizione tra gli sforzi verso la conquista della nuova frontiera spaziale e invece poi dopo il bisogno di dover comunque mandare avanti il mondo affidato a chi resta indietro. Eh sì, insomma, comunque viene fuori come questa idea di andare a modificare l'uomo sollevi poi inevitabilmente dei grandissimi dubbi. Al di là però di tutte, diciamo, le implicazioni, oggi la possibilità di intervenire a livello genetico per eliminare dei difetti congeniti è considerata proprio una delle frontiere più promettenti della medicina, e parliamo in questo caso di terapia genica. Ci spiega di che cosa si tratta Silvio Garattini, che è un oncologo di fama mondiale, spesso anche appare in televisione, direttore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri, che è stato fondato da lui stesso nel 63, ma ha un curriculum davvero lunghissimo. Ascoltiamo. Per terapia genica intendiamo la possibilità di veicolare attraverso mezzi opportuni un gene all'interno delle cellule in modo che possa far parte del patrimonio genetico. La presenza di questo gene tende a modificare il metabolismo cellulare e quindi, per esempio, produrre una proteina che è mancante oppure produrre in eccesso una proteina che si ritiene sia utile all'organismo. Questo tipo di terapia si può fare in modo molto limitato e per il momento vale soltanto per quelle malattie che hanno una origine monogenica, cioè in cui è implicato soltanto un gene. Si ritiene che queste malattie non siano molto numerose. Noi oggi possiamo sostituire un gene e nel fare questo abbiamo bisogno di impiegare dei virus che non siano tossici. Questo è un obiettivo che è stato abbastanza raggiunto recentemente. La difficoltà è che non sappiamo, aggiungendo un gene, quali altre modificazioni induciamo nel genoma e quali complicazioni creiamo. Questo lo potremo sapere soltanto con gli anni, e lo potremo sapere soltanto vedendo quali sono eventuali modificazioni che si possono generare dopo la riproduzione dei soggetti che hanno già avuto questa terapia. Eugenetica da una parte, terapia genica dall'altra, siamo comunque sempre dentro una dimensione ben precisa, cioè quella di eliminare dei difetti genetici, dei geni difettosi. Ma che cosa dire di un'altra ipotesi ancora più futuribile, cioè quella di selezionare, di inserire all'interno del patrimonio genetico umano dei geni che non appartengano alla specie umana? Ascoltate questo stralcio di un episodio di Star Trek tratto dalla quinta e ultima serie televisiva ispirata alla saga inventata da Gene Roddenberry, Star Trek Enterprise per la precisione. Ascoltate. Legga pure. Sono sequenze di DNA. Ce n'è una che modifica la cellula T dell'essere umano. Trasforma la sindrome di Sharatt in un ricordo del passato. Quella invece può dilatare il nostro spettro visivo almeno del 5%. Ovviamente nessuna di esse verrà mai testata. Allora perché investe tempo ed energia in qualcosa che nessuno userà? E lei sa dirmi perché una specie che si proclama intelligente rifiuta una tecnologia che aumenterebbe le proprie capacità e allevierebbe le sofferenze? Anche l'ingegneria genetica ha causato grandi sofferenze. Come la fissione dell'atomo. Eppure le prime navi che colonizzarono il sistema solare avevano motori nucleari. Ma lei non è qui per discutere di questo, vero? Uno sparviero Klingon è stato attaccato. L'equipaggio massacrato e la nave è sparita. I cadaveri dell'equipaggio Klingon sono stati abbandonati nello spazio. Ed è stato recuperato DNA estraneo a quei corpi. Aspetti, mi faccia indovinare. È umano? Non esattamente. Ho afferrato. Creature potenziate. Il loro DNA modificato corrisponde a quello di alcuni embrioni rubati da un laboratorio medico più di 20 anni fa. Rubati da lei. Bene Matteo, anche questo è uno scenario sul quale tutto sommato si sta lavorando. Ci fu un esperimento qualche anno fa che fece molto discutere. C'entravano delle scimmie. Ricordo questo esperimento appunto in cui a delle scimmie fu conferito il carattere della luminescenza, della fluorescenza, rendendole quindi delle scimmie fosforescenti a tutti gli effetti. Sì, gli inserirono proprio un gene prelevato da una medusa che si chiama Aquarea Victoria. Se non ricordo male, il senso dell'esperimento era quello di verificare la trasmissibilità di un carattere inserito artificialmente nel DNA delle scimmie. Ed ebbe successo l'esperimento perché nacque a un certo punto un piccolo dotato di questa caratteristica e avendola ereditata dai genitori. Dunque, Matteo, siamo in chiusura. Vorrei che a questo punto ci aiutassi a riflettere sulle implicazioni di tutte queste possibilità di cui abbiamo discusso, perché è evidente che ci troviamo proprio ai limiti della bioetica. Vorrei però che partissi da un fatto su cui ha messo l'accento Gianfranco Ferrigno, che abbiamo ascoltato nella prima parte della trasmissione. Ascolta. L'ultimo punto che vorrei aggiungere, che forse spesso viene trascurato dai tecnologi, è l'accettazione della protesi. Cioè, ovviamente la protesi deve avere anche un risultato estetico che sia gradito al paziente e che non ne porti al rifiuto, come a volte può accadere se le protesi sono troppo grosse, oppure ho visto di un trapianto di mano perfettamente riuscito, poi il tizio se l'è fatto togliere perché siccome era una pelle di colore diverso dalla sua, un aspetto diverso, non riusciva ad accettarla, nonostante funzionasse. Insomma, De Matteo, questo è un caso molto interessante. Il punto è che noi siamo indissolubilmente legati alla nostra forma umana, tutto sommato. È senza dubbio legato alla capacità di riconoscimento delle caratteristiche più familiari alla nostra concezione di umanità. Ricordo per esempio che già negli anni 70 si fece un gran parlare per merito di uno scienziato giapponese che si occupava di robotica, della cosiddetta Uncanny Valley, ovvero la zona del perturbante. Questo scienziato in pratica metteva in relazione la risposta emotiva di una persona di fronte a un'immagine che poteva mostrare un animale impagliato, una protesi, un cadavere oppure uno zombie, e si vedeva appunto come all'inizio ci fosse una tendenza a riconoscere forme sempre più simili all'uomo, per poi piombare in questa cosiddetta zona del perturbante di fronte agli stravolgimenti della figura umana, come potrebbe essere appunto la figura di un cadavere oppure di uno zombie. Cioè la reazione era la stessa. stessa praticamente di fronte... La stessa reazione, lì vicino veniva a posizionarsi la risposta emotiva alla alla vista di una protesi artificiale. Ecco, sarebbe interessante capire quanto questo rigetto è dovuto a una dimensione culturale, quanto a una dimensione biologica. In realtà, secondo lo studio che citavo, lo scienziato giapponese Masahiro Mori riteneva che fosse una reazione legata alla dimensione empatica dell'essere umano, anche se comunque è uno studio su cui la comunità scientifica non si è mai trovata d'accordo. Insomma, bisogna capire quanto la cultura è in grado poi di penetrare profondamente dentro percezioni che si radicano nella nostra biologia. Non è facile forse definire questo confine. Sono d'accordissimo e anzi auspico che la cultura possa aiutare a superare delle barriere legate alla nostra, al nostro retaggio, diciamo così, animale. E questo è il connettivismo. Grazie Giovanni De Matteo. Grazie a voi, ciao. Buona serata anche a tutti voi in ascolto, ci sentiamo settimana prossima.